La prima notte sul Vesuvio era passata quasi insonne per tutti. Qualcuno aveva preferito non cenare per approfittare di un'oretta in più di sonno. Mark e Aki non avevano affatto dormito. Avevano trascorso tutta la notte seduti a tavola chiacchierando e bevendo, ma soprattutto cercando un'idea per allontanare i tossici da quel luogo, tra l'altro riuscendoci bene. Già dalle prime ore del mattino alcuni, tra quelli che si erano svegliati prima, si erano attivati nel cercare di rendere vivibile la struttura. La cosa non era tanto facile, dato che all'interno, oltre le centinaia di siringhe sparse a terra, c'erano diversi cumuli di materiale di ogni genere carbonizzati, non tanto per l'incendio che aveva subito il ristorante, ma perché spesso i tossici, quelli più conciati mali, ci trascorrevano le notti e accendevano dei mini falò per riscaldarsi e illuminare la struttura. Inoltre c'era un fetore pare a quello che si potesse respirare nelle fogne di galeria. Non si riusciva a stare più di qualche minuto là dentro perché quella puzza di bruciato ed escrementi, non solo animali, prendeva non solo allo stomaco, ma pizzicava il naso e faceva bruciare gli occhi per l'effetto dell'ammoniaca presente nelle urine che componevano pozze che si erano formate negli angoli delle sale interne. Ci sarebbe voluto qualche giorno o poco più per rendere la struttura vivibile, anche perché ricorrevano le feste natalizie e molti negozi dove comprare materiale per i lavori erano chiusi. Per primo si cercò di rendere la struttura invisibile, dato che si trova a pochi metri dalla strada spesso frequentata da autobus turistici e anche dai Tarspok che ogni tanto pattugliano l'area del cratere. I rovi e gli alberi, presenti sul ciglio della strada, coprivano già buona parte della struttura che oramai era stata inglobata nella vegetazione tanto da renderla invisibile anche da un elicottero. Dalla strada, invece, guardando verso l'interno del bosco si riusciva a intravedere qualche tratto del ristorante. Si dovevano coprire quelle aree scoperte e visibili dalla strada, ma si doveva fare un lavoro molto preciso che non desse nell'occhio di chi era usuale passare da quelle parti. Sarebbe stato molto più facile entrare un po' di più nel bosco e cercare qualche altra struttura o casale abbandonato, ma i refrattarios non volevano lasciarsi perdere quell'occasione. Il ristorante si trovava in una posizione strategica, da là si potevano notare tutti i movimenti anche a distanze molto grandi, cose che permetteva di poter allertarsi e avere il tempo di fuggire in caso di pericolo. Anche se erano giorni di pioggia che rendeva ancora più difficile i lavori, si doveva approfittare delle condizioni climatiche perché fortunatamente questo evitava il transito di turisti e altre auto. Il primo giorno fu impiegato interamente dai refrattarios a rendere la struttura visibile, invisibile. Si aiutarono trapiantando grossi cespugli momentanei praticamente spostati da una parte all'altra con buona parte delle radici che non seccassero subito. Gli stessi mezzi, auto e camper, furono completamente nascosti sotto delle vere e proprie capanne di rovi con foglie molto fitte. Era sera ormai ed i refrattarios erano stanchissimi ma allo stesso momento anche molto gasati per questa nuova esperienza. Mark e Aki, come al solito già dai tempi più pacifici della Nazaro 13, trascorrevano gli ultimi momenti prima di andare a dormire chiacchierando, fumando e bevendo. I due refrattarios sono seduti su delle rocce vulcaniche e mentre chiacchierano del più e del meno hanno lo sguardo fisso sul panorama che si apre davanti ai loro occhi. Non è ancora del tutto buio e le luci della città sembrano quasi andare a bagnare anche le nuvole. All'improvviso, verso l'area nord della Nazaro 013, dove c'è un termovalorizzatore di rifiuti, si apre un bagliore di luce fortissimo che in una frazione di secondo illumina mezza città con la stessa identica velocità del flash di una macchina fotografica. Dopo pochi istanti si notano le fiamme ed un nuvolone nero che si alza a cielo. Questa volta non è un'esplosione dovuta a un attacco dei refrattarios per alcuni motivi. A meno quelli che si conoscono tra di loro sono tutti su Vesuvio e poi perché i loro attacchi sono sempre molto mirati e non coinvolgono la popolazione. Mark e Aki allertano gli altri che stanno già dormendo. I refrattarios in pochi secondi sono tutti a guardare dalla terrazza panoramica quello che sta accadendo in città con un'aria stupita e allo stesso momento preoccupata. L'esplosione è avvenuta nella centrale del termovalorizzatore che molto probabilmente, oltre all'inquinamento che causerà ancor più di quanto lo potesse fare prima, avrà fatto tantissime morti, e questa volta non certamente per tumore. Questi erano Positive Noise dopo la lettura, come di consueto, di Nazaro 13, che avviene ogni lunedì, giorno di letture, oltre alla controinformazione. Ricordo che per la lettura, quella che comunque va avanti già da un anno e mezzo, non per questo libro, ma abbiamo letto vari libri, stiamo leggendo Tortuga di Valerio Evangelisti, che fa seguito a Veracruz, che abbiamo letto nei mesi scorsi. Allora, ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione: radiazione@autistici.org per inviare le mail, informazioni, controinformazioni, consigli, critiche, tutto quello che si può mandare attraverso una mail lo potete fare attraverso radiazione@autistici.org. Qualche consiglio noi lo stiamo ancora aspettando da un anno e mezzo, non è mai arrivato, però è arrivato qualche complimento, qualcuno è piaciuta la lettura che stavo facendo, questo già basta. Forse significa che su questo non abbiamo ancora sgarrato. Sì, no vabbè, qualcuno ha criticato evangelisti, vabbè, però sono quelle, sono più pippe ideologiche. Memento mori. Che sul racconto in sé per sé si parla, si tratta di racconti, no, di realtà o di pensieri politici, sì. Allora, invece per il sito dove potete leggervi la controinformazione aggiornata quotidianamente è radiazione.org, dove potete scaricare o ascoltare anche i podcast delle dirette d'azione vecchie, dove potete anche scaricarvi opuscoli, materiale, qualsiasi tipo di materiale trovate nella pagina download dal sito. Potete anche scaricarvi, ascoltare la radio, rispetto a prima che era un blog, non c'era la possibilità di inserire il lettore flash, ora abbiamo il lettore flash sul sito, sulla sidebar, basta cliccare play il lunedì e venerdì dalle 17 e ascoltate la diretta d'azione avendo aperta una sola pagina. C'è anche un banner, c'è un banner per quanto riguarda la giornata, la chiamata alla giornata di agitazione internazionale solidale con i compagni del caso Security, caso di cui abbiamo parlato abbastanza nella diretta d'azione di venerdì, leggendo il comunicato che è anche firmato da Radiazione, oltre a un bel po' di firme di compagni sudamericani. Quindi la radio, dicevo, o attraverso il lettore flash oppure attraverso il banner che trovate ogni giorno della diretta che annuncia l'orario e di cosa si parlerà durante la diretta d'azione. Ora, prima di passare alla notizia, alla lettura di Tortuga, ci ascoltiamo prima un brano dei The Fall e poi dopo, subito, Tortuga e i pirati di Evangelisti. We'll be right back. private killer that not eats for a week. And the way that he looked at meat, no bottle has seen anymore. It could be his mangled teeth. He sees jawbones on the streets. Advertisements become carnivores. And road workers turn into jawbones. And he has visions of islands. Villagers dance around prefabs and lap through twisted mouths. Don't eat, it's disallowed. Suffer marrow bones and energy from the mainland. Febbraio 2014, questi erano i Positive Noise con Refugees, ma non parliamo di rifugiati, parliamo di... Ah, questi erano The Fall con Jawbone and A-Rifle, perdonate, abbiamo fatto il primo errore della diretta d'azione di oggi, lunedì 24 febbraio, ma noi non parliamo di A-Rifle, ma parliamo invece di pirati, ritorniamo nel XVII secolo, ritorniamo a terra, nell'isola di Tortuga, dove sono arrivati i fratelli della Filibusto, dopo essere stati presi in consegna da questo capitano, da un ammiraglio francese che dovrebbe garantire l'ordine in questi mari, perché Francia e Spagna avrebbero fatto la pace qualche mese prima in Europa, ma a queste latitudini non è arrivata eco, e allora i nostri fratelli della costa, la Filibusto, è arrivata alla Tortuga ed è comparso sulla scena l'ammiraglio de Grammont, questo uomo nero, così come lo hanno chiamato, che invece ha sancito che la Filibusta non si arrende, che la Filibusta con la marina militare francese non ha nulla a che vedere, e che stanno preparando una grossa spedizione contro una delle città più ricche, che non è questa volta Veracruz ma è Campeche. E adesso però è arrivato il momento di risolvere le grane tra Rogério dos Campos, Pepe Canseco, a proposito della schiava negra o nera, qualsivoglia dire, che è contesa, e quindi adesso vedremo come tra i pirati, come tra i fratelli della costa ci si spartiva le donne. Il mattino dopo il dibattito col governatore, stravinto de Grammont, Rogério osservava sconfortato le scialuppe che stavano attraccando, seduto sull'orlo del molo. Su una di esse, proveniente dal Neptune, scorgeva nettamente Pepe Canseco, addetto con gli altri ai remi. Manovrava il suo con l'unica mano che gli era rimasta. A poppa, seduta su un'asse, stava la schiava che Pepe aveva guadagnato. Eretta sulla schiena, avvolta in una tunica leggera, cercava di schivare gli spruzzi che la barca sollevava. Anche a distanza la sua bellezza era evidente. Rogério sussultò quando si sentì toccare la spalla. Era Le Bon, che sedette accanto a lui con l'eterna pipa in bocca. «Gesuita, io lo so che cosa ti cruccia. Forse ti sarebbe utile sapere alcune piccole regole della Filibusta che di sicuro ignori». «Ne so poco», rispose Rogério di malavoglia, e si asciugò il sudore che gli colava sulla camicia, sebbene il sole non fosse ancora alto, ma già picchiava forte. «Per esempio, se due avventurieri aspirano alla stessa donna, il perdente non resta mica escluso, potrà sempre visitarla, che al marito piaccia o no». Rogério ebbe un sussulto di speranza che si spense però subito. «Pepe e la schiava non sono sposati», osservò mesto. «Vorrei vedere uno spagnolo con una selvaggia africana, però il principio resta. Ogeron, che Dio l'abbia in gloria, dettò le regole degli accoppiamenti sulla Tortuga. Lui è morto, ma le regole restano in vigore». «E sarebbero?» «Si può essere sposati anche senza matrimonio formale. Un compagno e rivale del marito ha il diritto che ti dicevo. La donna, se viene maltrattata, è obbligata a convivere per 6 mesi, poi può rivolgersi al governatore e chiedere la separazione. Se il governatore l'accorda, lei può scegliere il compagno che più le aggrada e l'ex marito non può farci nulla. Rogerio era sbalordito da ciò che udiva. Trovava quelle regole spaventosamente immorali e si chiese tuttavia se potessero favorirlo e concluse che no, non era possibile. Stiamo parlando di una schiava, non di una moglie, di un amante. Oggi è così, ma domani chissà. E Le Bon strizzò gli occhi astuti. Qui, alla Tortuga, si possono sposare anche le schiave. La mia stessa vecchia la comperai in un mercato e qualche mese dopo la diventò mia moglie. Se fossi in te, mi farei venire qualche idea. Per la mente sottile e contorta di Rogerio era uno stimolo irresistibile e concepì all'istante una decina di piani diversi. Peccato che, a ben riflettere, gli paressero tutti irrealizzabili. Intanto le scialuppe si erano fatte strada tra le numerose barche dei pescatori e avevano toccato terra. Tra i primi a mettere piedi sul molo fu Philippe Calois, molto affaticato. Lo seguivano il negro Bamba, che gli portava il bagaglio, e Michel Truan, il sinistro nostromo del Conqueror, sopravvissuto all'affondamento della sua nave. Rivedere quell'individuo causò a Rogerio una profonda inquietudine. Calois vide Le Bon e gli andò incontro. «Tocca a te sorvegliare il Neptune. A bordo ci sono già 5 o 6 uomini più il cuoco. Io la mia guardia l'ho già fatta». «Hai ordini, primo ufficiale. Forse ve l'hanno già detto, ma si potrebbe anche ormeggiare nel porto, grazie al cavaliere de Grammont. Le fregate francesi adesso non ci minacciano più». Calois alzò le spalle. Lo so, e non vedo l'ora di constatare che faccia adesso quel de Lanversier. Consiglierei di tenere ancora il Neptune a largo, però, tanto non ci fermeremo a lungo». «Come volete, sieur». Le Bon lanciò un'occhiata amichevole a Rogerio. «A bientôt, gesuita, e ricorda quel che ti ho detto». Il portoghese era distratto. In quel momento toccava terra la scialuppa su cui erano imbarcati, fra i tanti, Pepe Canseco e la sua schiava. Pepe mise piede sul molo per primo e aiutò la sua preda a salire. Lei non aveva, al solito, nessuna espressione. Rifulgeva, per così dire, di luce interna. E molti pescatori interruppero le loro attività per fissarla ammirati. «Gesuita, ho saputo che De Lussan ci lascia e seguirà gli inglesi. Penso che lo sostituirà Exquemeling», disse Calois, e si interruppe. «Ma che cos'è che hai?» Preso da un impulso improvviso, Rogerio corse verso Pepe, che si irrigidì e lo guardò con sospetto. Il portoghese gli tese la mano e gli disse d'impeto: «Devo scusarmi con te, camerata. Perdonami davvero, tua moglie è tanto bella che avevo proprio perso la testa». L'altro guardò con sbalordimento le dita che gli venivano porte. «Non è mia moglie», obiettò, «è il mio bottino». «Ma la sposerei di certo una donna così», disse Rogerio accalorato. «Io lo farei, solo mostrarsi con una simile bellezza darebbe prestigio alla Tortuga. Quanto a me ti chiedo ancora scusa». E finalmente Pepe gli strinse la mano con l'unica che gli rimaneva, per quanto ancora dubbioso. «Non ti preoccupare, amico, tra noi le storie di donne si regolano con facilità». Rogerio allora gli sorrise. «E invitami alle nozze, mi raccomando. Ah, se ci saranno non mancherò». Rogerio, nell'allontanarsi, lanciò appena un'occhiata alla schiava, che aveva ancora i polsi legati. Ricevette uno sguardo interrogativo, ma non particolarmente carico d'affetto o di fiducia. Come sempre, la donna pareva soprattutto spaventata. Al portoghese, però, bastava guardarla per esserne inebriato, e tanto gli era sufficiente. Il disegno che aveva in mente gli si precisò. Nel frattempo, il porto di Caiona si stava animando. Gli equipaggi delle navi con la bandiera nera, ridestati dai fumi delle orge, iniziavano i preparativi per la spedizione imminente. Rotolavano barili, portavano gabbie di polli, si passavano cordami, i carpentieri recavano strumenti utili a lavori leggeri di carenatura. Ragazzetti traballavano sotto il peso di fasci di fucili. A ridosso del molo si moltiplicavano nell'acqua sporca e schiumante scialuppe e barcacce. Pareva che ognuno fosse ansioso di rimettersi in mare, come se la vita a terra con i suoi piaceri fosse intollerabile. Eppure il mare era visto da quasi tutti gli avventurieri come un nemico. La maggior parte non sapeva nuotare, i più intransigenti rifiutavano di alimentarsi di pesci e crostacei, tuttavia l'ansia di riprendere il largo era comune. Circolava una frase che Rogerio afferrò più volte, che echeggiava quanto detto da De Grammont: «Appuntamento alla Isla della Vacca, come ai vecchi tempi!» E l'esclamazione era accompagnata da sorrisi. Le strade di Caiona non ospitavano solo filibustieri. Tra una casetta colorata e l'altra, sotto i portici, fiorivano i negozietti e trovavano ospitalità e attività normali: sarti, maniscalchi, fabbri, artigiani del legno e della stoffa. Nella via centrale transitava ogni tipo di veicolo, dal cocchio elegante, a dir la verità raro, dei funzionari della compagnia, ai carretti dei piantatori di tabacco, di frutta e di granai. Le prostitute erano sparite, probabilmente si stavano riposando dopo le fatiche della notte. Le taverne erano chiuse. Circolavano in prevalenza donne di ogni colore, coperte di involucri se erano schiave, con ombrellini per proteggersi dal sole se erano libere. L'arteria polverosa e senza nome che attraversava l'intera Caiona rendeva obbligatori gli incontri con gente conosciuta. E fu così che Rogerio, nei pressi della bicocca che lo ospitava, si imbatté in De Lussan e in Exkemeling. I due medici scendevano sotto braccio dalla collina e sembravano indifferenti al caldo montante. Rogerio si inchinò per primo in direzione di De Lussan. «Signore, ho inteso che volete lasciarci. Dispiace più a me gesuita, ma temo che non ci sarà più avvenire per la tortuga. Il cavaliere De Grammont prenderà sicuramente Campeche, questo è certo. Ciò malgrado sarà la sua ultima conquista. Non può sfidare impunemente la volontà di Luigi XIV. Dico bene, Exkemeling?» «Dici benissimo.» «Gesuita, se non avete altro da fare, che ne direste a venire a bere con noi una Guilledon in un'osteria? Alcune sono già aperte, sarebbe una specie di festa di commiato.» La Guilledon era una bevanda molto alcolica ricavata dalla fermentazione del succo della canna da zucchero. Altrove, dove si parlava portoghese, era detta garapa o guarapa. Più forte di qualsiasi acquavite, la si beveva come rinfrescante assieme ai vari agrumi spremuti. Rogerio avrebbe preferito, a dir la verità, seguire a distanza i movimenti di Pepe Canseco, e l'obiezione che mosse fu un'altra. «Ma il primo ufficiale Calloa potrebbe aver bisogno di me.» «Ma non credo proprio», rispose De Lussano. «Ormai siete assegnato alle Ardì per decisione di Lorenzio. Buona o cattiva che sia quella sorte.» Non c'era più nulla da replicare. E allora Rogerio si lasciò trascinare fino ad una taverna, la Mei Noir, che aveva sistemato due tavoli all'aperto, sotto ciuffi di palmizi. Quando il liquore arrivò, iniziarono le conversazioni. «Tu sei stato alcuni anni in Europa dopo le esperienze con Henry Morgan e con l'Olonet», disse De Lussan a Exkemeling. «Hai però avvertito l'impulso di tornare qui, come mai?» «Il sole europeo è ancora devastato dalle guerre di religione», spiegò Exkemeling, «interminabili e sanguinosissime. E poi io avvertivo la nostalgia di questi mari, di questo cielo, di queste coste. Sembra leggere una purezza introvabile in altre parti del mondo.» De Lussan portò alle labbra il suo bicchierino di cristallo. «Purezza!» e fece la sua solita smorfia sardonica. «Dimmi la verità. Qui si respira barbarie allo stato elementare, è questo che ti attrae.» «Oh, ti assicuro che non è così», esclamò Exkemeling quasi scandalizzato. «Qui è tutto terribilmente bello, non oserai negarlo.» «Oh, non lo nego, soprattutto non nego l'avverbio terribilmente.» «Ma cos'è che intendi dire?» De Lussan, sorridente, scosse il capo. «Ma ne abbiamo parlato tante volte in questi ultimi anni, è inutile tornarvi sopra. Pensiamo piuttosto al nostro gesuita che ha già conosciuto da vicino il cavaliere De Grammont e si prepara a servirlo.» E mimò in direzione di Rogerio il gesto di un brindisi. «Amico mio, l'esperienza che vi aspetta è di quelle uniche nella vita. Spero solo che il cavaliere non sia al corrente dei vostri trascorsi religiosi.» «Ma no, non lo so», balbettò Rogerio. «L'ho visto solo da lontano.» «Beh, avete buone probabilità che non venga mai a saperlo. Parla unicamente con Lorenzio e mai con i subordinati, persino con gli altri capitani è parco di parole. Lorenzio non ha interesse a dirgli che di avergli procurato quale Nostromo un ex religioso. Ma perché? Che cosa accadrebbe se De Lussan scoppiò allora a ridere? Ah, lo scoprirete da solo, anzi, spero proprio di no. E torno subito serio. Parliamo d'altro, mio gesuita. Non so come vada tra voi e la vostra bella. Ruggero impallidì. Ma a chi alludete? Ma lo sapete meglio di me. Siete già informato sui costumi della tortuga circa le donne. Vi sarete fatto un'idea di come appropriarsi delle mogli altrui. Ebbene, non fatevi illusioni. Non ci riuscirete a meno che non uccidiate il marito. Dico bene, Xcameling? Beh, se ho capito ciò di cui stai parlando, direi di sì. Ruggero allora balbettò. Ma io non riesco a seguirvi. E questo lo capirete, gesuita. E De Lussan aggrattò le sopracciglia. Evitate soprattutto che De Grammont veda la bella schiava, vostra o di Pepe che sia. Non permettetelo. È De Grammont, non un Pepe Canseco qualsiasi, il maggiore pericolo che corre il vostro idillio. Nessun marinaio di basso rango lo sa, però io conosco il capitano. Mi avete inteso? Ruggero, spaventato, bisbigliò un sì poco convinto. Questo consiglio ve lo lascio come regalo da Dio. De Lussan alzò il bicchierino. È la ghigliottina più fiacca che io abbia bevuto in vita mia. Ora faccio venire l'oste. O ce ne porta una di migliore, o lo bastono di persona. E questi erano Terrier con il brano del Locus of Control. Ora si passa alla notizia di controinformazione. Oggi pochissima, perché non c'è niente. Fortunatamente non è successo niente di brutto, ma purtroppo non è successo niente nemmeno di bello. Quindi poco e niente come controinformazione. Pronteremo la diretta d'azione, la maggior parte sulla lettura di Tortuga, così ci portiamo avanti e poi speriamo di portarlo a termine anche verso metà, fine marzo, Tortuga. Allora, per quanto riguarda la controinformazione, si va in Cile, dove c'è uno scritto del compagno José Miguel Sánchez Jiménez a pochi giorni dalla scarcerazione. Leggiamo il testo del compagno: la lotta è permanente oggi e sempre. Oggi, mentre il calore estivo sta finendo, gli attacchi dovrebbero aumentare. I guerrieri che hanno preso una vacanza oggi nuovamente devono tornare in trincea. Che ridicola verità! Quelli che sono stati permanenti in lotta senza tregua contro il nemico sono pochi, coerenti e non sono andati in vacanza. Capiscono che in questa guerra non ci sono tregue, che la lotta è una parentesi, l'azione strada non può abbassarsi di intensità. Allora, precisiamo un attimo una cosa, il compagno sta dicendo calore estivo, ricordiamo che comunque da quelle parti in Cile e Sud America il periodo estivo va da dicembre fino a marzo, quindi sta finendo l'estate per loro, non è che il testo è vecchio. Allora, continuiamo a leggere il testo. O per caso il potere e il suo entourage sono andati in vacanza? Essi non perdono tempo e agiscono quando ripieghiamo o andiamo in vacanza, e non possiamo dare alcun vantaggio o cedere terreno. Non avanzeremo se non saremo costanti nei nostri attacchi. È molto probabile che la mia visione della realtà dall'esterno è limitata, ma cerco di aggiornarmi con tutti i mezzi, essendo che non sono molto lontano dalla verità nelle mie opinioni. Mi dispiace per queste situazioni immobilizzate che si verificano in questi tempi d'estate. La crisi è evidente, solo pochi sono su piede di guerra permanente. Che fine hanno fatto gli altri? Approfitto per rinviare un abbraccio grande, amore e rispetto a chi resta permanente in lotta. Un saluto combattivo alla cellula incendiaria Sebastian Overslucci, lo spirito combattivo per evidenziare e imitare. Fratelli, forza, presto sarò a dare un contributo alla lotta di strada, ballando al suono della rivolta con tutti gli insorti. Alle menti coscienti chiedo di non dimenticare di non dimenticare i loro detenuti. Qua c'è un errore sul testo tradotto sulla reazione. A solidarizzare attivamente con loro e che mai si sentano soli. Nel mio caso non ho mai sentito l'isolamento e mi sono alimentato grazie a tutto ciò. È importante essere presenti con loro. Non immaginate quanto faccia bene ricevere gesti di solidarietà e di affetto dei nostri compagni. Oggi, a 5 giorni dalla scarcerazione, l'ansia di essere parte attiva della lotta mi fa perdere il sonno, mi altera il sangue e concludo che siamo tutti necessari. Dobbiamo dedicare noi stessi per diventare migliori in quello che facciamo in tutti i modi possibili. Non voglio dimensionare come sarà il momento della mia scarcerazione. Sono molto emotivo e so che le mie lacrime scorreranno e nemmeno proverò a fermarle. Non credo di essere un buon oratore in questo stato, saranno tante le emozioni. Spero che mi scusi chi mi ha aspettato, o forse sarà il contrario e parlerò tantissimo, non lo so, solo allora saprò. Libertà ai detenuti per lottare, il potere non riposa, i guerrieri mai, libertà. Fraternamente, José Miguel Sánchez Jiménez, ex penitenziario, 22 febbraio 2014. E questo era il testo del compagno che a breve sarà libero, finalmente, affronta un po' di temi che comunque non riguardano solo il Cile, anche in Italia. In Italia, cioè, la vacanza, l'estate, tutti scappano. Voleva aggiungere qualcosa? No, sì, soprattutto che troppi di noi sanno che cosa significa essere liberati, sanno che cosa significa passare gli ultimi giorni prima che quelle infami porti si aprano, e quanto lo stomaco ne paghi in termini di tensione, e quanto invece sia la liberazione e la voglia di non ritornarci mai più là dentro. Allo stesso modo, io e Marcello sappiamo benissimo cosa significa quando arrivano gesti di solidarietà dall'esterno. in questi casi sono momenti belli forti, anche un presidio, anche sentire la voce dei compagni fuori dal carcere è una cosa che cioè, ti colpisce molto, ti aiuta dentro. Da far venire i brividi in molti casi. Allora, questo era per quanto riguarda il testo di José Miguel Sánchez Jiménez. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono i Chrome con il brano New Impression, e poi dopo si ritorna qui con la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. Thank you. è il sound dark di questa tastiera ammiccante ci porta di fronte all'uomo nero. Rogerio dovette deglutire, tanto il viso severo del cavaliere de Grammont lo intimidiva. Erano lui ed ex Kemeling nello studio del capitano, entro la villetta di collina nascosta tra la vegetazione. Lo studio era, se possibile, ancora più austero del salotto. Una scrivania in legno massiccio, una poltrona, poche sedie e qualche scaffale di libreria, da cui sporgevano carte nautiche il dorso di una decina di volumi. L'unica finestra che dava su Caiona e sul mare era coperta per metà da una cortina di bambù, che una cordicella fissata a un chiodo permetteva di arrotolare o svolgere. Il sole entrava filtrato dalle foglie e dai tronchi delle palme, numerose e basse. Alle pareti non c'erano né quadri, né tappezzeria, né festoni d'armi, né decorazioni d'altro tipo. «Sembrate barcollare, signor De Campos», osservò De Grammont in tono poco cordiale. «Siete zoppo!» In difesa di Rogerio intervenne ex Kemeling sorridente. «Barcollo anch'io, cavaliere, abbiamo bevuto Guilledin per salutare la partenza di Ravenaud de Lussan, forse un po' troppa, ma vi assicuro che siamo entrambi lucidi». «Beh, allora suderete», De Grammont fece una smorfia. «Non sopporto la forza di chi suda. Sedetevi sulle sedie più lontane dal tavolo». Dal canto proprio il cavaliere aggirò la scrivania e si immerse nella poltrona, che lo avvolse con i braccioli troppo lunghi e lo schienale altissimo. Lui sì che zoppicava, anche se non vistosamente. Allungò la gamba destra su uno sgabello coperto da un cuscino. Ex Kemeling attese che il capitano si fosse sistemato e quindi disse: «Questo signore è il nostro uomo che Laurent de Graff vi ha procurato in sostituzione di quello che avete perduto sull'Erdi». «Troppo giovane. Un nocchiero deve avere esperienza e 50 anni come minimo». «Vi assicuro che il signor De Campos ha dimostrato esperienza e coraggio. Si è rivelato un eccellente contramastro, sia in navigazione che in battaglia. Batte molti più anziani di lui. Io non arruolo bambini». A quel punto De Grammont, malgrado i modi compiti, lanciò la bestemmia più oscena ed elaborata che Rogerio avesse mai udito. «Lorenzio ha voluto prendermi in giro, peggio per lui. Sarà ripagato con la stessa moneta. Riportategli indietro questo scheletro». La voce di ex Kemeling si tinse leggermente d'angoscia. «Ma non siate frettoloso nel giudizio, cavaliere. Il contramastro De Campos ha rivelato doti che nessuno sospettava». De Grammont incrociò le mani sull'addome molto piatto ed emise un sospiro. «E va bene. Dei giudizi vostri, dottore, non mi fido tanto. Di quelli di De Lussan un po' di più». Il pirata volse lo sguardo perennemente triste anche quando vi riceve una parvenza di sarcasmo su Rogerio. «Nostro uomo finita la vita comoda a Caiona, le bisca, le puttane. Se volete servirmi, domattina all'alba dovrete essere a bordo delle Ardi. Ci sono mille cose da fare in preparazione dell'attacco a Campeche. E cercate di rendervi utile, altrimenti vi porto a Fort Rock e vi consegno all'inferno». «All'inferno?» chiese Rogerio sbalordito. Ex Kemeling si mise davanti a lui e si inchinò. «Vi ringraziamo tantissimo, cavaliere. Questo portoghese non vi deluderà. Lo accompagnerò io stesso a bordo. Come state con la gamba?» «Soffro, ma soffrire è nella natura umana. Bevo gli infusi di coltico e di altre porcherie che mi avete prescritto». «Oh, ma date la precedenza ai rimedi adatti ai temperamenti malinconici. In voi la bile è sotto controllo». «Lo farò». Ex Kemeling si inchinò ancora più profondamente e questa volta Rogerio capì che il colloquio era finito e lo imitò. I due visitatori attraversarono le stanze della villetta e scesero in strada. Dovevano essere le 2 del pomeriggio e faceva più caldo che mai. «Un'altra Guilledin?» propose ex Kemeling come aperitivo prima di mangiare qualcosa. «Perché no?» rispose Rogerio, che era già mezzo ubriaco e tuttavia avvertiva la necessità di superare con l'alcol l'emozione dell'incontro con De Grammont. Tornarono alla taverna da cui provenivano, la Main Noire, ma il sole aveva cambiato posizione e i tavoli esterni non erano più all'ombra. Sedettero all'interno. Un tavolo era occupato da bucanieri che discutevano fittamente nel loro gergo, i fucili lunghissimi appoggiati al muro alle loro spalle. A un secondo tavolo, un uomo di aspetto rispettabile, probabilmente al servizio della compagnia francese delle Indie Occidentali, giocava a carte con tre avventurieri che Ruggeri non conosceva. Fumo di pipe e aroma di spezie coprivano altri afrori, come quello emanato dalle galline in gabbia vicino al bancone, saltellanti sulle incrostazioni del loro stesso sterco. Attendevano di essere spennate e infilzate nello spiedo. Ex Kemeling lanciò un'occhiataccia al funzionario. «Come odio quelli della compagnia», mormorò a Ruggeri. «Sapete che sono stato un loro engagé? Peggio di un servo, quasi ne morivo. Qualcosa ho saputo, gli schiavi bianchi che vedo attorno sono della stessa categoria. Sì, ma sono gli ultimi, la compagnia è fallita, per fortuna. Non è più in grado di vendere i suoi impiegati, li ha finiti. Sono in gran parte morti sotto le staffilate il terzo anno di servizio». «Perché proprio il terzo anno?» chiese Ruggeri mentre un ragazzino nero come l'ebano a piedi nudi serviva le galliedon e gli spicchi di limone. Ex Kemeling sospirò. Il suo tono era leggero, però si vedeva che l'argomento lo faceva soffrire e l'alcol ingerito rendeva più vividi ricordi dolorosi. È il momento in cui il padrone, per essere risarcito dei pezzi da otto con cui li ha comperati, esige dagli engagé il massimo delle energie. Sta per perderli, perciò si inventa multe che li mantengano al suo servizio. Li frusta, li bastona, aizza contro di loro i cani. Figuratevi la situazione di un modesto contabile che viene qua per svolgere una mansione impiegatizia e si trova denudato sul palco del mercato degli schiavi. C'è chi lo palpa, chi lo deride. Viene trascinato via con un anello attorno al collo e una catena che li unisce agli altri uomini e donne già venduti. Signore mature lo punzicchiano con le punte degli ombrellini, un'esperienza tra le più umilianti che un essere umano possa subire. Ruggeri, mentre beveva e cercava di tenere sotto controllo il capogiro che lo aveva colto, ripeté ad alta voce ciò su cui stava riflettendo. «Ma che strana isola è la Tortuga! Sembra la patria stessa della libertà, eppure si fonda sullo schiavismo, esteso persino ai bianchi. Non riesco a cogliere ciò che collega queste contraddizioni». «Se riflettete bene, un elemento c'è!» Ex Kemeling si toccò le tempie, segno che non stava troppo bene nemmeno lui. Per fortuna arrivarono delle bistecche di cinghiale arrostito ma ancora sanguinanti. «La società di qui si fonda sul denaro e non ha altri valori. Si rischia la vita per loro e si passa il resto del tempo a spendere. Si comprano donne, uomini, cose, animali, genere da consumare in fretta e prima di morire. Non esistono altre leggi. È per questo che dà una sensazione di libertà a volte inebriante. Si uccide per guadagnare, si guadagna per spendere, poi si torna a uccidere finché non si è ammazzati da qualcuno più forte. Si contano sulle dita i filibustieri che muoiono nel loro letto. Ancora meno sono quelli che muoiono ricchi, loro che hanno accumulato e circolato in altre mani. L'unica norma etica della tortuga è homo homini lupus». Ruggeri aveva la bocca piena. La carne di cinghiale era deliziosa, sebbene un po' dura, abbrustolita fuori, tenera e sanguinante dentro. Pepe e le altre spezie ne saltavano la fragranza. «Non sono molto d'accordo», obiettò. «Tra gli avventurieri, come anche tra i bucanieri, pare prevalere la fraternità». «Ah, così credono anche loro e se ne compiacciono. La verità è che si tratta di una sorta di fratellanza tra lupi. Non sono affatto amichevoli verso chi non appartiene al loro branco. Il calcolo che li unisce è elementare. Per predare è indispensabile fare gruppo». Mi sono sembrati tutto sommato molto religiosi. «Un'altra illusione fra le tante cose che comprano finché hanno soldi vi è la grazia di Dio. L'Olonè e Michel Basque reggevano chiese, sì, però dopo aver violato per mesi tutti i comandamenti possibili. Ma è inutile che io proseguo, ormai l'avete capito. La tortuga sembra il paradiso, invece è l'inferno». Ruggeri, sempre più ottenebrato, faceva fatica a seguire le argomentazioni di Ex Kemeling. Mentre esponeva le sue tesi, il chirurgo aveva fatto sostituire le guilledon con due caraffe di vino rosso spagnolo Rioja. Era eccellente, chissà da quale stiva di galeone catturato proveniva. Non era però fatto per riportare a lucidità chi era già sull'orlo dell'ebbrezza. Fu con voce impastata che Ruggeri domandò: «De Grammont ha parlato di un purgatorio e di un inferno a Fort Rock. Cosa intendeva dire?» Ex Kemeling, che appariva altrettanto alterato, sorrise esageratamente. Purgatorio è il nome della prigione della tortuga, modellata su quella della fortezza di San Juan de Olu a Veracruz, che è chiamata così. Invece l'inferno è una macchina progettata dal governatore Ogeron in persona. E che tipo di macchina? È un ordigno diabolico, una specie di gabbia con un sistema di lame che permette mutilazioni raffinate. Mette i brividi solo a descriverla. A onore di Ogeron devo dire che è stata usata solo 3 volte in 30 anni ed esclusivamente per reati gravissimi come il tradimento e la sobillazione degli schiavi. La fantasia di Rogerio, eccitata dalla mescolanza di vino e Ghiodan, si perse in pensieri foschi. Il suo sguardo si posò sui bucanieri intenti a giocare. Si accorse per la prima volta che le macchie scure sulle loro vesti di stoffa e di pelle erano di sangue raggrumato. Sicuramente erano causate dall'abitudine di portare in spalla i cinghiali uccisi prima di consegnare agli schiavi. Sangue animali, dunque, che spiegava il cattivo odore che ogni bucaniere emanava. Sembrava alludere, come l'inferno, a fluidi umani spremuti a forza da corpi per i quali si provava solo disprezzo o al meglio indifferenza. Qui sulla costa e anche in mare gli uomini mi paiono pupazzi da sventrare a piacere, le donne merci da vendere, i bambini fori in cui sfogare i propri bisogni. Farfugliò Rogerio sempre meno lucide e dovette ripetere la frase, tanto che l'aveva ingarbugliata, del resto era complessa fin dall'origine. Non c'è traccia di pietà. Ex Kemelin inghiottì l'ultimo pezzo di carne, vuotò il suo bicchiere di vino e ruttò. Esatto, gesuita. Ciò vale per i fratelli della costa, ma anche per tutti gli europei che arrivano su questo continente. Si lasciano alle spalle ogni morale. E sbadio. Cercano l'oro. È solo quella. Se qui è l'utopia, è molto triste. Utopia? Rogerio non poté avere spiegazioni sul termine, perché cadde addormentato e la guancia gli finì sul piatto. Ex-Kemeling si rivolse ai bucanieri che ridevano. Allargò le braccia. «Ah, i giovani! Non sanno più come si beve!» borbottò a mo' di scusa. Fermò con una sculacciata una schiava di passaggio. «Un altro litro di rosso! È una bistecca al sangue!» No. E questi erano Gas Nevada con il brano Now I Won't Kill You. Ora si passa alla controinformazione. Controinformazione. Diciamo, apriamo una parentesi un po' ironica, un po' ridicola, perché praticamente sul sito di informazione chi ne ha avuto modo ha potuto leggere un testo che normalmente finisce solo nello scrigno, però stavolta era così bello, era... Se si è deciso di pubblicare anche in home questo scritto è solamente perché una perlina del genere non può essere infilata nella pagina dello scrigno e basta, dove tra l'altro potete andarvi anche a... Ripetiamo che cos'è lo scrigno. Lo scrigno praticamente è questa pagina, è un bauletto dove vengono infilate tutte le perline anarchiche. Non bisogna ingazzarsi sempre. Una risata ogni tanto va bene anche, perché mancano un po' di risate al movimento anarchico. Leggiamo questa dichiarazione degli anarchici bosniaci, una dichiarazione in occasione della manifestazione del 22 febbraio 2014. Condanniamo ogni rapina sulla popolazione civile, lavoratrice e nei negozi indipendenti e nelle edicole. Invitiamo all'autodisciplina e alla responsabilità dei manifestanti. Se rubate al vostro popolo, allora non siete affatto migliori dei partiti capitalisti e del governo attuale. Unitevi al popolo, pattugliate e fermate i ladri. A me viene da ridere man mano che la leggo. Però, condanniamo anche la decisione dell'assemblea di allontanare le persone con il viso coperto dalla manifestazione e la visita di Nicola Sill, rappresentante dell'ambasciata americana, all'assemblea. Non sappiamo se questa visita sia stata organizzata o meno, ma noi vediamo che le persone appartenenti alle organizzazioni non governative hanno sfruttato l'assemblea e le manifestazioni nel tentativo di realizzare i propri scopi. Invitiamo e incoraggiamo tutti gli abitanti a venire alla manifestazione con il viso coperto o meno, come preferiscono. Le manifestazioni non sono proprietà di nessuno, né si possono imporre delle regole. Gli individui che condannano le persone con il viso coperto, le stesse persone senza le quali l'assemblea dove hanno invitato gli occupatori americani non esisterebbe, fanno le stesse cose che faceva il governo durante e dopo le manifestazioni del 7 febbraio. Cercano di criminalizzare le proteste e di dividere i manifestanti tra civilizzati e criminali, per spezzare il nostro spirito combattivo e la nostra solidarietà. Questo non lo dobbiamo permettere. Creando delle divisioni tra i manifestanti, stanno cercando di spezzare le proteste e creare lo stesso scenario che hanno realizzato al Festival delle Manifestazioni per il JMBG, il codice dell'identificazione. Ognuno ha il diritto di scegliere se vuole o meno che il suo viso appaia sui filmati della polizia, e con questa decisione vengono anche violate le libertà dei manifestanti e si gioca in favore del governo attuale. Allo stesso modo, il manifestante infiltrato Ervin Sasic, condannato per il possesso per pedopornografia, ha cercato di consegnare alla polizia manifestanti in rivolta e con il viso coperto il giorno 8 febbraio. Invitiamo tutti, se chiunque veda il succitato, di avvertire gli altri manifestanti. Non permettete che ci dividano quelli che stanno dalla parte del capitale. Sapevamo tutti che simili persone si sarebbero infiltrate tra di noi e dovevamo prepararci a questo. E come ultima cosa, ma non per questo meno importante, condanniamo gli incendi degli edifici statali e della documentazione e invitiamo ad occuparli. Tutti questi palazzi appartengono a noi. È giusto il momento di prenderci quello che ci appartiene. Né fiori, né candele, né concerti, senza trattative e compromessi, per la libertà e per una vita dignitosa. Poi sotto ci sono degli asterischi che poi leggendo il testo dal sito di redazione potete notare, tipo le assemblee cittadine auto-organizzate che attraverso il metodo della democrazia diretta chiedono anche l'istituzione di un governo tecnico che dovrebbe collaborare con le stesse assemblee, la revisione delle privatizzazioni riferito alla proprietà statale dell'epoca socialista, la revisione di stipendi dei funzionari pubblici. Le proteste GMBG sono scoppiate a giugno del 2013 in tutto il territorio della Bosnia ed Erzegovina, quando per motivi di conflitti politici lo Stato rimase senza la legge sul numero dell'identificazione del cittadino, senza cui i cittadini non possono ottenere la carta d'identità e il passaporto. E poi c'è il terzo asterisco quando riguarda i palazzi della documentazione, che sono riferiti all'archivio, all'incendio dell'archivio di Stato e dei palazzi governativi. Allora, fare attenzione agli infiltrati nelle manifestazioni, ma secondo me è buono pure fare attenzione alla presenza di certi anarchici che vanno a difendere i palazzi statali, perché è cosa nostra, cioè cosa è cosa no, cioè cosa deve essere nostro? Un palazzo statale non può essere mai nostro, non può essere anarchico, a parte che non è proprietà di nessuno, ma una cosa è dire è un palazzo dove si può che va riappropriato per farci delle case per chi è senza casa, e un'altra cosa sono palazzi istituzionali di cui riappropriarsi, e non lo so per quale motivo. Comunque c'è una quantità di cose in questo testo che è veramente non rasente il ridicolo, ma va oltre il ridicolo. L'abbiamo letta giusto per smorzare anche i toni, normalmente si critica altre lotte, qualcuno si incazza, però questa andava letta rispetto alle altre volte che non si sono lette le notizie che vanno a finire sullo scrigno. Questa meritava e merita secondo me la perlina d'oro dell'anno. E chi si offende? È un offendente, giustamente. Ora ci ascoltiamo un brano di Nine Inch Nails, The Perfect Drug, ovviamente, e poi dopo si torna qui con la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. Taking me, I shouldn't go, but you're rich. E The Perfect Drug ci porta nei giorni di noia. Rogerio passò un'intera settimana al bordo delle Ardì senza sapere bene che fare. Il brigantino a tre alberi, simile al Neptune malgrado un numero maggiore di cannoni, oscillava all'ancora in attesa che la spedizione su Campece prendesse corpo. Gli altri uomini dell'equipaggio di stanza sulla nave erano cinque, a parte il primo ufficiale, tale Hubert Macari, nostra vecchia conoscenza da Veracruz, che però andava e veniva. Molto più interessante di lui si rivelò un marinaio che per esperienza piuttosto che per scienza fungeva ogni tanto da timoniere. Si chiamava Francis Levert ed era originario di Marsiglia ed era evaso da una delle galere reali che in Europa il Re Sole spingeva contro i nemici del momento dopo più di 20 anni di guerra ininterrotta. Fino a 10 anni fa i rematori delle galere erano benevoli, cioè volontari, oppure turchi, catturati qui e là per il Mediterraneo, venduti come schiavi a Livorno, a Venezia, a Malta, a Cagliari o a Candia, spiegò Levert in un mattino soleggiato e già torrido, mentre appoggiato al timone guardava i pendii verdeggianti di Caiona e gli altri vascelli alla fonda. Poi Re Luigi si è alleato con l'impero ottomano e di turchi non ne abbiamo avuti più. Sono stati sostituiti a remo da contrabbandieri, falsari, protestanti ed altri detenuti, oltre a diverse centinaia di indiani irochesi fatti prigionieri in Canada. «E tu a quale categoria appartenevi?» chiese Rogerio in tono distratto. Pensava come sempre alla schiava che gli stava a cuore. Non ne aveva notizie ormai da giorni. «Io, in teoria, ero un benevolé. In realtà i reclutatori, detti racoyer, battevano le campagne alle osterie di città, ti facevano ubriacare e ti prospettavano chissà quali avventure. A volte giocavano a carte e se perdevi ti condonavano il debito in cambio della tua firma sotto un contratto d'ingaggio. A tempo indeterminato, è chiaro. Ciò che è accaduto a me, spennato da un bar in una taverna di Marsiglia e messo a remo come un galeotto. Libero però, non eri né schiavo né un prigioniero. Libero. È dal 1670 che per ordine del ministro Colbert, che il diavolo lo fulmini, i benevolè sono incatenati ai loro banchi alla stregua di detenuti comuni. Levert aggrottò la fronte, il ricordo doveva essere dei più dolorosi. A parte i continui colpi di frusta e la fame quotidiana, non c'è nulla di peggio che essere alla catena su una galera da guerra durante una battaglia. Non puoi schivare i proiettili, né i lembi di vela incendiati che ti cadono addosso, né le piogge di schegge di legno quando una cannonata nemica frantuma un albero o una fiancata. Se la nave prende fuoco, sei condannato a bruciare vivo. Chi mai si prenderebbe la briga di liberarti? È il tutto senza nemmeno sapere di grazia contro chi sua maestà stia combattendo e chi riempia le altre galere che coprono il mare. Rogerio, la schiena appoggiata alla chiesuola che ospitava la bussola, provò simpatia per quell'uomo che doveva avere viste tante e gli domandò: «E tu, Levè, come sei riuscito a fuggire?» Beh, una decina di anni fa si decise di riportare in Canada gli indiani irochesi, troppo indocili, troppo selvaggi. Nei villaggi da cui erano stati rapiti erano scoppiate rivolte, pericolose per la tenuta francese sulla colonia, e io fui scelto per l'equipaggio che doveva ricondurre gli indiani in patria. Su un'altra galera? No, su un galeone le galere non sono mica adatte all'oceano. Possono navigare solo rasente alla costa, in acque calme, come quelle del Mediterraneo o nei mari del nord. Ma fu la mia fortuna. Appena avvistata terra, fuggii a nuoto e capitai su un'isoletta non lontana da Maracaibo. Ero quasi uno scheletro, tutto coperto di piaghe per le frustate e i cibi infetti. Raggiunsi la città e quando i filibustieri dell'Olonè la presero, mi unii a loro. Rogerio pensò alle digressioni ciniche di Ravenot de Lussan circa le pulsioni animalesche dell'essere umano. Lo schiavismo regnava ovunque e Re Luigi, con le sue galere, lo applicava anche a bianchi arruolati per costruzioni. Sulla tortuga non era diverso. Semmai l'isola aveva una caratteristica sua propria. Malgrado l'intensa fede cristiana dei pirati, i traffici di merci materiali e umane non erano posti sotto le leggi da divina, Si vendeva ogni cosa, si acquistava di tutto. Ogni spagnolo avrebbe, dopo uccisioni, crueltà efferate, implorato l'ausilio della fede a giustificazione dei suoi atti compiuti in vista di un bene supremo. Alla tortuga nessuno si sarebbe sognato di invocare Dio a protezione delle sue gesta. C'era oro e bisognava attingervi per legge naturale. Dio era lodato di tanto in tanto, più come complice che come padrone. E cosa facevi a Maracaibo prima che arrivasse l'Olonné? Le vertazzo le spalle. Soprattutto il sicario. Assieme a mille altri mestieri, sgozzavo gente in arretrato sui debiti, gestivo 3 o 4 schiave nei bordelli di Spagnola o della Tortuga. Roba normale. Quando sono per mare rimpiango tutto ciò, quando sono a terra non vedo l'ora di reimbarcarmi. È strano, non è vero? No, poi tanto. Rogerio allargò le braccia. Io qua mi sto annoiando e aspetto solo che si parta per la isla della Vaca. Un'idea ambigua gli frullava per la mente. Hai detto che a Maracaibo facevi il sicario e non provavi alcun rimorso nell'uccidere per soldi. L'altro lo guardò con stupore. E cosa andiamo a fare a Campeche se non a uccidere per soldi? Il re lo fa con le sue sporche guerre continue. Ed era un'obiezione che non ammetteva repliche. Rogerio tacque, ma continuò a rimurginare. Trascorsero altri 2 giorni privi di eventi prima che i preparativi della spedizione iniziassero sul serio. I lavori cominciarono fra nitriti e altri versi animali. Si trasportavano cavalli, galline e maiali a bordo dei vascelli più capienti con l'aiuto delle grosse scialuppe a una sola vela che gli spagnoli chiamavano barcas longas e gli inglesi pinnaces. Un'imbarcazione che i pirati usavano volentieri per sorprendere i galeoni nel sonno, ma anche un efficace mezzo per trasportare merci voluminose. D'improvviso tutto il porto di Caiona si animò. I carpentieri si dedicarono a dare l'ultima mano di pece alle catene. I cannonieri ripulirono e fissarono i pezzi. Fasci di fucili e moschetti furono issati sui brigantini e le golette che componevano la flotta. I paranchi di cima e quelli di straio sollevarono ingenti carichi di palle di cannone. Circolava e aleggiava un generale sentimento di entusiasmo riassunto nella solita frase che circolava ovunque: alla isla della Vaca, come ai vecchi tempi. Rogerio condivise quel clima euforico finché un evento improvviso e imprevisto non lo raggelò. Sul ponte delle Ardì, provenienti dalla barcaccia, avevano messo piede 2 dei personaggi a lui meno graditi, Henri Duval e Michel Truin, il nostromo del Conqueror. «Cosa fate qui?» chiese senza traccia di amicizia nella voce. «Io sarò il tuo contramastro», rispose Duval mentre si sgranchiva le gambe. «Lorenzio mi ha passato a De Grammont. Penso che sia per colpa di quel vecchio scemo di Le Bon che non ha mai potuto vedermi. Per fortuna il cavaliere ha tenuto conto della mia esperienza». «Quanto a me», disse Truan, «la fama della mia famiglia si è fatta sentire. Sono qui come secondo ufficiale e questa volta, gesuita, tu sei ai miei ordini». Non ci poteva essere per Rogerio notizia peggiore. L'altro se ne accorse. «Oh, su via, non fare così. Nella filibusta uno scende ora e dopo sale e poi considera che ti porto una buona notizia questo pomeriggio. Puoi sbarcare». «Io ho ordini diversi», replicò secco Rogerio. «Dimenticali, il capitano li ha modificato. Pepe Canseco ha reclamato la tua presenza al suo matrimonio, ti considera suo compare di nozze, a quanto ho capito». Rogerio sentì il sangue affluirgli al viso, barcollò leggermente. «Matrimonio?» «Oh sì, sposa non so quale schiava che ha liberato. Il bello è che non ne conosce nemmeno il nome». Truan scoppiò a ridere. «Immagino che prima della cerimonia in chiesa la battezzeranno, perlomeno». Anche Duval rise. «Ah, la strada del gesuita e dell'amore ormai la sanno tutti. Ben giocato, portoghese, come compare di matrimonio potrai visitare la tua bella quanto vorrai. Mica scoparla però, attento alle regole». Rogerio non gli badò. Ancora frastornato si avviò alla barcaccia da cui erano saliti 2. prima che potesse mettere i piedi fuori bordo fu raggiunto dalle verte, agitato e rosso in viso. «Quei due personaggi non mi piacciono per niente», disse il marsigliese. «Il cavaliere de Gramont deve essersi bevuto il cervello per arruolare canaglie di quel tipo sulle Ardì, l'ammiraglia!» Rogerio scrollò le spalle. «E che vuoi che ti dica? Forse de Gramont ignora chi siano. Oppure ha in mente i suoi calcoli che non possiamo sapere.» Posò gli stivali sulle griselle e scese sulla barcaccia. A terra ferviva la stessa attività che in mare e barili d'acqua e di rum erano fatti rotolare verso le scialuppe da piccole folle festose di pirati. Le prime persone conosciute in cui Rogerio si imbatté all'ingresso di Caiona furono Hans van der Laan e il negro Bamba, entrambi carichi di cordami. Erano seguiti da un bucaniere robusto con tre fucili in spalla e un mazzo di sciabole chiuso in un fagotto nella mano sinistra. Più distante, uno degli arawakos reclutati da Lorenzio reggeva un barilotto di polvere da sparo. «Sai dove si svolge il matrimonio di Pepe?» chiese Rogerio a Hans. L'olandese lo guardò con una simpatia un po' complice, da cui non era assente una nota di compatimento. «Doveva svolgersi nella cappella dell'Olonnais, ma non è più così. Padre Gerarda, quando il governatore ci ha ritirato il suo appoggio, rifiuta i sacramenti ai fratelli della costa. Pretende che ci pieghiamo all'autorità, prima o poi quel pretaccio bisogna farlo fuori e catturare un altro parroco meno servile. Dunque non ci sarà matrimonio. Oh, mi dispiace, tut mir leid per te, gesuita. Ci sarà», rispose Hans in tono sinceramente rattristato. «Nach unserer leggi, anche un capitano di rango può celebrare uno sposalizio. Ho sentito che de Gramont presiderà le nozze. La sua benedizione vale molto più di quella di un pretaccio. E dove? Nella sua villa, immagino.» Rogerio fece per allontanarsi, ma Bamba, che parlava di rado, lo interpellò con la sua voce rauca e gutturale. «Signor gesuita, ho udito che gente non buona va sulle Ardi. Capitano Lorenzio si sbarazza di chi lo disturba. Uomini cattivi, cattivi soldati, restate sul Neptune!» Un poco sconcertato, Rogerio allargò le mani. «Ma non dipende da me. Allora attento, gente non buona!» Rogerio rivolse al negro un cenno di ringraziamento e proseguì lungo la salita polverosa. Le mille taverne avevano già aperto i battenti, ma nessuno faceva caso alle prostitute che si affacciavano, i capelli scompigliati e la veste aperte sul seno. Carretti e muli stracarichi scendevano al porto, seguiti da animali in libertà e da torme di bambini a piedi nudi. Quando, tutto sudato, Rogerio fu in vista della villetta di de Gramont, il cui tetto rosso spiccava tra i palmizi, gli tornò alla mente il consiglio ricevuto da de Lussan giorni prima: impedire che il cavaliere vedesse la schiava. Beh, ormai non c'era modo di evitarlo. La curiosità di assistere a un matrimonio tra filibustieri attenuò un poco, ma solo di un poco, i suoi timori. questi erano Excision con il brano False with Noise. Ora si passa all'ultima notizia per oggi di Controinformazione. La diretta continuerà con la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisto. L'ultima notizia riguarda la Grecia, a Salonicco, dove sono state attaccate due banche, e ne leggiamo il testo rivendicativo. Giovedì 20 febbraio abbiamo approfittato del traffico stradale ed abbiamo attaccato due banche, l'Hellenic Post Bank e la Banca Nazionale, all'incrocio delle strade Tsimiki e Pavlou, distruggendo le loro vetrate d'ingresso e gli sportelli Pangomat. Questa azione è dedicata a Tasos Teofilou, che è stato condannato a 25 anni di reclusione, e Alexandros Mitrousias e Giorgos Karagiannidis, che attendono la decisione del tribunale in un altro processo del terrore, e di partecipanti alla rete dei prigionieri anarchici in Grecia. Saluti da compagni a Kostas Sakkas, che è scappato da poliziotti. Organizziamoci e attacchiamo lo Stato e il capitalismo con ogni mezzo necessario. Questa era, per quanto riguarda per oggi, l'ultima notizia di Controinformazione. Invece poi ricordo che praticamente sulla sidebar trovate il manifesto che è stato fatto per la giornata di agitazione internazionale solidale per il caso Security. C'è un testo, chi ci si ritrova, chi ne ha voglia di sottoscrivere il testo, può mandare una mail a Radiazione chiedendo di aggiungere il proprio nome, sia un blog, sia un giornale, sia qualche individualità che vuole firmarsi con qualsiasi firma. Quindi leggetevi il testo e mandate una mail a Radiazione o ai compagni di Pubblicazione Refrattario per aggiungere questa firma. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono i Suspiria con il brano Awfully Sinister, e poi dopo si ripassa alla lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. We'll be right back. un matrimonio. Gli sposi attendevano al piano inferiore di essere ammessi alla presenza del cavaliere de Grammont. Pepe Canseco corse incontro a Rogerio sorridente. Ti aspettavo, compadre, ho seguito il tuo consiglio. Una sposa tanto bella non può restare schiava. Tra due giorni si parte e quindi è meglio maritarsi subito. Rogerio vide l'africana seduta su un divano. Teneva le mani nel grembo della veste bianca che indossava, tutta trine e trasparenze. Chinava il capo, ma lo rialzò all'ingresso di Rogerio. Gli lanciò un'occhiata inespressiva e subito dopo riabbassò la testa. Il portoghese fu gratificato da quel semplice sguardo, seppur vacuo. E cosa intendi fare con lei? È ovvio. Metterla a lavorare, non c'è bordello alla tortuga che non la prenderebbe, è così bella. Naturalmente lo sposalizio che si sta per celebrare è una finzione, manca il prete. Saranno però presenti in veste di madrine alcune delle mie mogli precedenti. Pepe strizzò l'occhio. Finora sono 11 indiane, negre, spagnole catturate e rimaste senza riscatto. Mi hanno dato un branco di figli. Spero solo che la schiava che ho liberato sia l'ultima della serie. Scopo ancora! Ma certo senza l'impeto di 30 anni fa. Rogerio fu nauseato da quelle parole, ma il progetto che coltivava lo aiutò a superare il disgusto. Riportò lo sguardo sulla promessa sposa, estranea al contesto che la circondava. Attorno c'erano vari marinai del Neptune, fra cui Le Bon, che fumava la pipa, e il capitano Adies Zone, che lo salutò con una strizzata d'occhi, e il mozzo Filou, che fungeva da paggio. La negra Marie Claire rassettava l'abito della novia che lasciava fare. Le Bon si avvicinò a Rogerio e gli parlò a bassa voce. So che Lorenzio, con un pretesto, ha trasferito sulle Ardi gli elementi più pericolosi. Si è guardato bene dal dire a de Grammont che Duval era stato uno stromo sul Neptune e declassato per la sua perversione, o che Truan si è segnalato per vigliaccheria. Non posso certo dirglielo io, obiettò Rogerio. Oh, certo che no! Ti stavo solo invitando a stare in guardia e, se puoi, a sbarazzarti dei due fringuelli. Gli occhi di Rogerio erano puntati sulla schiava, che peraltro non ricambiava il suo sguardo. Al momento ho altro a cui pensare. Lo so bene. Le Bon tolse la pipa di bocca e abbozzò un sorrisetto. Ma anche in questo caso stai attento, compadre. Non so se sia davvero Pepe il pericolo maggiore. Proprio in quell'istante il cavaliere de Grammont apparve in cima alla scala. L'ascese, un passo alla volta, al braccio del dottor Exkemeling. Il pirata celava, dietro una smorfia, la sofferenza che ogni gradino doveva procurargli. Appariva come sempre altero e investito di naturale autorità. Il chirurgo, molto più alto di lui, sembrava un nano che reggeva un gigante. «Ebbene questo matrimonio!» chiese de Grammont sbrigativo. «Facciamo in fretta, ho faccende più importanti di cui occuparmi!» Pepe Canseco si fece avanti. «Giove presento la mia futura moglie, capitano. Era una schiava conquistata con la mia mutilazione. La dichiaro libera e vi prego di sposarci!» L'africana dovette afferrare che si parlava di lei perché si alzò in piedi. E in tal modo manifestò tutta la sua bellezza che l'abito largo e il velo sul capo non riuscivano a celare. Tuttavia, i suoi occhi rimanevano come sempre mobili e spaventati. Fu chiaro ai presenti che de Grammont restò molto colpito dalla bellezza della donna. Si sottrasse alla stretta di Exkemeling, le si avvicinò e, presa la mano di lei, la baciò con una mossa elegante. «Come vi chiamate, mia cara?» Attese inutilmente una risposta, poi si girò verso Pepe. «Ma è muta, per caso?» «No, no, mi capitan. Ella non intende il nostro idioma. Cercherò di insegnarglielo. Saprai almeno il suo nome?» Pepe deglutì. «No! No, ve lo confesso. Ogni tanto dice qualche parola. Non so se si tratti del suo nome o di qualcos'altro.» «La tortuga è piena di schiavi negri che parlano francese o spagnolo, alcuni perfino inglese. Non dovrebbe essere difficile trovarne uno che possa tradurre.» Pepe era sempre più imbarazzato. «Ci ho provato, capitan!» «Ma nada! La mia fidanzata deve venire da una tribù particolare della costa dell'Africa. Algun negro di quest'isola riesce a comunicare con lei?» De Gramont parve meditare, poi esplose in una bestemmia tra le più oscene che Rogerio avesse mai udito ancora una volta. Detta in Spagna, al cavaliere sarebbe costata il taglio della lingua o l'arresto da parte dell'Inquisizione. Alla tortuga, invece, la si tollerava. «Pezzo di imbecille!» disse De Gramont rivolto a Pepe Canseco. «Come posso sposare due persone senza sapere il nome di entrambe? Non sono un prete, d'accordo, però un conto è uno sposalizio di fortuna, un altro è una presa in giro. Ho la sensazione che nei tuoi piani ci sia la seconda.» Pepe Canseco impallidì. Sembrava sul punto di mettersi in ginocchio. «Mi capitan, vi giuro che non è così. Non so il nome di costei, ma la costringerò a dirmelo. L'ho avuta col sacrificio del mio braccio sinistro. Mi spetta in moglie.» De Gramont lo ignorò. Raggiunse la promessa sposa che attonita stava in piedi, le palpò i seni e subito dopo le alzò la sottana, rimirò il pube e le gambe e la fece girare su se stessa, le passò le mani inanellate sul sedere. Lei non reagì, sembrava in uno stato prossimo alla catatonia. Terminata l'ispezione, De Gramont lasciò ricadere la gonna e commentò: «Bella femmina! Di maggior valore di un braccio sinistro. Lorenzillo esagera in generosità.» Chiese poi a Pepe: «Hai un compare di moglie?» Preso alla sprovvista, lo spagnolo indicò Rogerio, impallidito per il cuore che gli batteva troppo adagio. «È lui! Ah, è il mio nuovo nostromo!» disse De Gramont. «La schiava è sua e tu ne avrai una di minor valore. Questa la venderemo sulla strada per Campece. Ovviamente ti darò la tua quota. Adesso sgomberare, la commedia di questo matrimonio è terminata.» Pepe Canseco sbarrò gli occhi. «Voi state scherzando, è un'ingiustizia!» De Gramont, che era tornato a sorreggersi al braccio di Exkemening e si dirigeva alle scale, lo fulminò con lo sguardo. «Io non scherzo mai e non è un'ingiustizia!» scandì. Si rivolse a Aubert Macari, fermo, braccia incrociate vicino alla porta. «Signor Macari, cercate quella vecchia schiava indigena che mi cura il giardino e datela a questo spagnolo. È avanti con l'età, però ha membra ancora solido malgrado la stazza. Lei sì che vale un braccio sinistro.» Molti dei presenti ridacchiarono, non così Pepe, che obiettò con un filo di voce: «Capitano, io ero qui per sposarmi.» «Ti sposo con la vecchia quando vuoi, non preoccuparti.» Nella sala scoppiarono risate che De Gramont ignorò. Serissimo disse a Rogerio: «Nostromo, com'è che vi chiamate?» Il portoghese era rimasto inebetito e passava da un'emozione all'altra. Si riscosse: «Rogerio de Campos, mi capitan. Prendete la negretta e portatela sulle Ardi. Non sono consentite donne a bordo, ma le schiave sì. La decisione di liberare costei è annullata. Il gavone di prua destinato ai negri è una sozzura. Trovatene un letto accanto al quadrato di poppa.» Rogerio fu inebriato da una felicità sconfinata, si inchinò fino a terra. «Obbedisco subito, mi capitan!» De Gramont brontolò una bestemmia peggiore, se possibile, di quella di prima. «State dritto! Sulla mia nave voglio uomini, non pupazzi!» Detto questo, prese a salire faticosamente le scale, quasi spinto di peso da Exkemeling. «E ora mi farete un bel salasso dei vostri, dottore, poi un infuso di colchico. Non voglio domani l'altro mettermi in mare in questo stato.» Rogerio attese che il capitano fosse salito e mosse verso la schiava senza nome, che non aveva capito sicuramente nulla di quanto era successo. Le Bon lo afferrò per un braccio e gli parlò all'orecchio: «Modera il tuo entusiasmo, gesuita. La passione del cavaliere per le donne è nota a chiunque. Ha riservato il bocconcino a se stesso, mica a te.» Non era il momento opportuno per ricondurre Rogerio alla calma. Eccitato, questi si sottrasse alla stretta e replicò: «Almeno uno dei miei rivali l'ho eliminato.» «Ah, sì, quello piccolo. Resta l'altro, ma che è molto, molto più grande.» Pepe Canseco era rimasto al centro della stanza annichilito. Si rianimò solo quando vide Rogerio avvicinare la schiava e prenderla per il braccio. Allora scattò in avanti furibondo. «Non osare toccarla, sozzo pretaccio! Quella donna è mia!» In quel momento rientrava Macari, seguito da un'indigena anziana e obesa, tutta sudata. La donna aveva un fazzoletto a quadrettini rossi sui capelli e il viso tondo, unto come il corpo di una foca. Puzzava anche da lontano. «Questa donna è tua, Canseco!» annunciò fra le risa dei presenti. «Non hai udito il capitano? Rassegnati, la decisione è presa. Preparati semmai alle nozze vere se proprio vuoi sposarti.» Una collera irrefrenabile scintillò negli occhi di Pepe. Con l'unica mano valida sguainò la sciabola e l'alzò sul capo. «Vuoi morire? Tira fuori la spada, battiti da uomo e non da leccapiedi quali sei!» Un attimo dopo Pepe era costretto ad abbassare la sua arma. Adizon l'aveva preso da dietro e gli premeva la lama di un pugnale sulla gola. «Lascia la sciabola o ti sgozzo, carogna!» Pepe dovette obbedire, la lama tintinò sul pavimento di legno, il suono fu appena attutito dal tappeto proveniente da qualche regno africano o forse dalla casa di uno spagnolo delle colonie che se l'era procurato. «Che faccio di questo sgorbio, Macari?» chiese Adizon in un tono fatuo. «Lo lascio lo sgozzo, sarei per la seconda soluzione, però non vorrei sporcare la casa del mio amico De Grammont.» «Sgozzatelo pure, capitano», rispose Macari divertito. «Questa donna», aggiunse indicando la negra obesa, «penserà a pulire i tappeti, ce lo deve, ha corso un bel rischio sposare una nullità e servirla tutta la vita.» Il pugnale di Adizon segò la gola di Pepe da un orecchio all'altro, scaturì dalla ferita un fiotto di sangue lasciato dall'olandese. Pepe Canseco si afflosciò, non ebbe alcuna agonia, morì in pochi istanti. Adizon, mentre puliva la lama del pugnale in un fazzolettino, strizzò l'occhio a Rogerio, sorrideva. «Vi ho fatto un piacere perché mi siete simpatico. Non aspettatevi altri favori da parte mia, i vostri problemi veri cominciano adesso e saranno troppo gravi perché io possa aiutarvi.» Non molto dopo, estasiato, Rogerio conduceva la schiava ancora vestita da sposa verso il porto di Caiuna e le ardì. «Non sai il pericolo che hai evitato», le disse. «Umiliazioni a non finire, violenze, servitù. Pepe Canseco era un concentrato di squallore. Adesso tutto cambia. Però potresti finalmente dirmi il tuo nome, non credi?» Come al solito la schiava non rispose. Fissava con occhi vitrei il porto di Caiona. Al crepuscolo, alberi, sartiame e scafi erano già coperti dalle prime ombre. con oggi finisce qui la diretta d'azione. Ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione: radiazione @autistici.org per chi vuole mandare informazioni, riviste online, materiale da pubblicare sul sito di radiazione, oppure critiche, oppure complimenti, ma ce ne sono, quello è poco ma sicuro, lo sappiamo. Invece per il blog, per il sito è radiazione.org, dove potete leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente, dove potete riascoltare le dirette d'azione e scaricarvi un po' di cose attraverso la pagina dei download, dove potete anche ascoltarvi la radio durante le dirette d'azione lunedì e venerdì dalle 17 con attraverso il lettore che trovate sulla sidebar o attraverso il banner che trovate sull'articolo che annuncia la diretta d'azione di quel giorno. L'appuntamento prossimo è per venerdì 28 febbraio, l'ultimo giorno di febbraio, quindi con controinformazione e musica. Per la lettura si parla per lunedì prossimo. Vi lascio con un brano di Cobalt 16, The Worried Well, e con questo vi dico ciao. E chi si offende è un fedente. I hear the bad night. azioni in diretta. Frequenze e azioni in diretta. Radio azione, radio azione, controinformazione, letture, informazioni, musica. Radio azione, frequenze e azioni in diretta. Radio azione, radio azione, radio azione, radio azione, radio azione, controinformazione, letture, informazioni, musica. Radio azione, frequenze e azioni in diretta. Radio